Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni. Sicuramente sentito dire, magari l'avrete anche pronunciata, la frase «Dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna». Adesso la frase non è più di moda, perché in questo periodo buonista, nel quale bisogna dire la sindaca e la ministra e la presidenta della senata, chi lo sa, tutte queste cose qua, non bisogna più dirle queste cose. E invece è un errore, perché il significato profondo non implica che una donna debba stare all'ombra del suo grande uomo, al contrario, implica che ogni grande uomo è tale perché ha una grande alleata, un supporto che lo rende forte. Quindi è una frase a favore delle donne. Bisogna avere l'intelligenza per capirlo, insomma. Quello che volevo sottolineare io è un'altra cosa che riguarda questa frase, è che in genere questa frase viene associata a una moglie, a una compagna, a una fidanzata. È raro che si pensi a un'altra figura femminile chiave nelle nostre esistenze, quella che invece ci dona la vita, cioè la madre. Oggi è il 2 maggio 2019, è il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, è una ricorrenza che sarà celebrata in ogni parte del mondo, in ogni modo possibile. Beh, noi vogliamo in qualche modo staccarci dal coro più che giustificato, di quelli che stanno rendendo omaggio al grande genio, e di parlare non di lui direttamente, ma della donna che lo ha messo al mondo, una grande donna che è rimasta sempre dietro al più grande uomo, probabilmente, di tutti i tempi. Una donna per lo più sconosciuta, che ha saputo fare molti passi indietro, ha sacrificato il suo amore di madre e anche l'egoismo che c'è in ognuno di noi, in ogni madre, anche per dare a Leonardo, a suo figlio, questo futuro radioso che con lei non avrebbe potuto vivere. Oggi la nostra straordinaria protagonista è Caterina Buti, madre di Leonardo da Vinci, donna coraggiosa che ha scelto di vivere nell'ombra per veder crescere, dopo averlo dato alla luce, un genio. Nacque un mio nipote, figliolo di Ser Piero, mio figliolo, addì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte. Ebbe nome Leonardo. Battezzollo prese Piero di Bartolommeo da Vinci, in presenza di Papino di Nanni, Meo di Tonino, Pier di Malvolto, Monna Lisa di Domenico di Brettone, Monna Antonia di Giuliano. Questo era un passaggio tratto dal bellissimo sceneggiato Rai del 71, La vita di Leonardo da Vinci, di Renato Castellani, con uno straordinario Philippe Leroy nei panni del grande genio. Peraltro c'era Giulio Bosetti, un altro grande, che faceva il narratore. Il resoconto è quello della notizia della nascita del nipote Leonardo, annotata dal nonno Antonio da Vinci, padre di Piero, notaio. Annotata su un antico libro notarile trecentesco, che era usato come raccolta di ricordanze della famiglia. E già, perché di Leonardo si sa bene che aveva un padre, Ser Piero da Vinci, il notaio, si conosce tutta la sua illustre famiglia, che era molto nota nella Vinci dell'epoca, ma nota anche a Firenze. Però fino a questo momento non si avevano reali notizie della madre, eppure ovviamente una madre l'ha avuta anche lui. Però chi era? E si sapeva di lei solo che si chiamava Caterina, che era una ragazza di Vinci. Ma perché il giovane Ser Piero, padre di Leonardo, non l'ha sposata, anche se ha riconosciuto e accolto in casa il figlio che lei gli ha dato? A quel tempo il principale impedimento di un matrimonio era di ordine sociale. Questa Caterina era una contadina, era di origini troppo umili per diventare la moglie di un figlio di notai, di Ser Piero, e così è stata liquidata molto rapidamente. Bene, oggi però noi sappiamo molto di più su questa donna misteriosa, che è uno dei punti più oscuri della biografia di Leonardo da Vinci. Questo grazie a delle ricerche molto pazienti, molto approfondite, effettuate a partire dal 2007 da una professoressa Elisabetta Olivi, che è docente di storia della matematica al Dipartimento di Matematica e Informatica Ulissedini dell'Università di Firenze. Tutto questo è riassunto nei suoi articoli e grazie al lavoro certosino di una scrittrice, Marina Migliavacca Marazza, che ha pubblicato recentemente il romanzo storico L'ombra di Caterina, edito da Solferino. Da questo romanzo abbiamo tratto gran parte delle informazioni che vi daremo, i passi che vi leggeremo, un romanzo dedicato alla straordinaria figura di questa donna incredibile, Caterina, che ha avuto la forza, l'intelligenza di rimanere per tutta la sua esistenza nell'ombra per dare alla luce il genio incommensurabile di Leonardo da Vinci. E allora partiamo con il racconto di quello che possiamo definire uno scoop esclusivo nell'ambito della vita di Leonardo da Vinci. Eh sì, perché su di lui hanno scritto centinaia, migliaia di pagine, articoli, hanno fatto documentari, fiction, film. Leonardo forse è il personaggio più famoso dell'umanità, è conosciuto, amato, versatile dalle invenzioni fino alla Gioconda, con in mezzo migliaia di imprese artistiche e dell'evoluzione dell'uomo. Però fino a questo momento c'era questo vuoto, questo buio sulla madre. Vogliamo dare voce per la prima volta a questa figura dopo secoli di silenzio. E per inquadrare il momento storico, per contestualizzare, come dicono quelli bravi, bisogna tener conto che Caterina nasce all'incirca nel 1430-31 a Vinci, bellissima cittadina, 30 km da Firenze. Siamo nel pieno del Rinascimento italiano, nel luogo di origine del Rinascimento. Naturalmente Caterina non sa nulla di tutto questo fermento culturale che si sta sviluppando attorno a lei, lo può solo sfiorare perché lei è una contadina e in più è una donna. Anzi, la storia di Caterina è proprio emblematica della condizione femminile di quegli anni, anche in un periodo amato e ammirato come il Rinascimento italiano. Le donne, tranne nei casi delle nobili molto ricche, non hanno un ruolo sociale. La loro vita si concentra solo sull'essere moglie e madre. Quando una donna non è feconda o ha difficoltà a avere figli, per esempio, è considerata una nullità. In realtà è considerata male anche se fa solo figlie femmine. Peraltro, se ci sono più femmine in una famiglia, qualcuna andrà richiusa in convento. Sono le famose malmonacate. Abbiamo raccontato, per esempio, la terribile vicenda della monaca di Monza. Lauretta mi disse che sarebbe finita in un convento di clausura. Dicono che farla monaca non sia così male, le risposi. Non devi per forza appartenere ad un uomo che magari non ti garba. Non devi far figli uno dietro l'altro. Sai come chiamano le clarisse di Santa Margherita? Le insaccate. Perché ti mettono una tonaca grezza, ti rapano a zero, chiudono il portone e buttano la chiave. Mio padre non ha una gran dote da dare al convento e se mi prendono è per farmi lavorare come il mulo che lui tiene alla macina, né più né meno. Potresti rifiutare, risposi. Mio padre ha detto che se lo faccio, mi ammazza. Mi ha mostrato anche la roncola che tiene attaccata al muro nel frantoio con gli altri attrezzi. Mi vuole sgozzare con quella. E questo era un brano tratto dal libro di cui parlavamo prima, L'ombra di Caterina. Viene descritta minuziosamente la condizione femminile dell'epoca. Peraltro, non so, erano anni nei quali non era troppo difficile per una donna essere accusata di stregoneria, bastava essere particolarmente bella o strana, bastava che qualcuno formulasse una qualsiasi accusa, anche senza prove, per incappare in qualcosa di assolutamente tragico. Insomma, lo sapete qual era il destino delle streghe. E poi c'era ancora ovviamente il matrimonio riparatore, che scagionava completamente chi violentava una ragazza se si offriva di sposarla. È un costume peraltro che ha resistito fino a tempi recenti. Abbiamo raccontato in una nostra puntata il caso emblematico di Franca Viola. Eravamo negli anni 60 del Novecento. Franca Viola, ricordiamo, la prima donna che si rifiutò di sposare il suo stupratore, divenne un simbolo, un caso. insomma, torniamo indietro. Essere donna negli anni di Caterina non era esattamente facile, non c'era nessuno dei diritti fondamentali che fosse riconosciuto, e anche i pochi che in qualche modo venivano accettati venivano calpestati senza rischi. La nostra protagonista sta per vivere una tra le sopraffazioni più drammatiche che possa subire una donna. Però in lei scopriremo amore e senso di sacrificio immensi, e tutto questo darà vita a qualcosa di straordinario che rimarrà eterno nella storia dell'umanità. All'epoca di cui stiamo parlando non ci sono ancora i cognomi, e le bambine, le ragazze nubili vengono identificate dal nome del padre o del fratello maggiore se il padre è morto. E infatti Caterina da nubile è chiamata di cambio, che è il nome del padre, che è anche il nome che porterà il suo fratello maggiore. Poi ha una sorella più grande che si chiama Lisa. L'abbiamo detto, le donne sono al mondo prevalentemente per far figli, secondo il pensiero dell'epoca. Quindi il cambio spera solo che le sue sorelle si sposino al più presto, perché sarebbero bocche in meno da sfamare in una famiglia contadina dove non abbondano né i soldi né le comodità. Lisa ha superato la ventina, già quasi per passare per zitella, perché allora insomma i giochi si facevano molto presto, però è promessa, tra poco si sposerà. Caterina ha 17 anni, non si parla ancora di fidanzamento, in realtà c'è uno che le fa gli occhi dolci, il fratello gliela darebbe volentieri la sorella, lui si chiama Antonio Buti del Vacca, detto Tonio, è un ceramista, un ex mercenario durante le guerre di Lombardia, aveva combattuto con i veneziani, con i milanesi, era stato ferito, era tornato al paese con qualche moneta come congedo, un bello sfregio rossastro che gli tagliava la faccia dalla fronte al mento e una gamba rigida. Prima era un bel giovanotto, alto e robusto, adesso c'ha questa faccia aperta a metà e un bastone che usa per sostenere ciò che rimane della sua gamba. Peraltro il bastone diventa un'arma per le risse, perché la guerra lo ha trasformato in un reduce violento, mezzo invalido. A 30 anni è già una persona, diciamo, sul viale del tramonto. Lo hanno soprannominato l'attaccabrega. Insomma, questo Tonio non è esattamente il principe azzurro che le ragazze sognano di sposare. A Caterina lui proprio non piace, e in compenso uno che le piace c'è, perché lei fa un incontro destinato a cambiarle per sempre la vita. Nuda, entrai nell'acqua nel punto più riparato del rivo, aggrappandomi ai rami flessibili del salice rosso, immergendomi fra le rocce scintillanti al sole. L'acqua era fredda, correva veloce, una benedizione. Tra i massi c'era un punto che conoscevo bene, dove una roccia liscia formava una specie di bacile concavo e rosato. Mi ci infilai, rabbrividendo di piacere, immergendo anche i capelli, giocando sott'acqua. Poi alzai la testa e vidi un uomo a cavallo che stava fermo sulla sponda opposta e guardava dalla mia parte, levando la mano destra a farsi schermo contro il sole, incredulo dello spettacolo insolito che gli stavo offrendo mio malgrado. Lo riconobbi subito e mi rannicchiai su me stessa. Il cavaliere era Ser Piero da Vinci, il nostro padrone di casa, che era venuto a riscuotere la pigione arretrata e che mi stava ammirando in controluce, nuda come mia madre mi aveva fatta, dentro le scintillanti acque del Bonchio. Non l'abbiamo ancora detto, ma Caterina è una donna molto bella, bionda, lineamenti fini, fisico asciutto, atletico, ben proporzionato. È una contadina, ma sembra una nobildonna. Insomma, Ser Piero da Vinci, figlio del padrone di quei terreni, stimato notaio, anche se ha solo 25-26 anni, la incontra in quella situazione che sarebbe imbarazzante per lei, ma diciamo anche una situazione piccante, e lui non fa marcia indietro, ma la raggiunge. Non immaginavo che il rio Bonchio fosse abitato dalle ninfe, le dice così un po' da paraculo, diciamo. Lei non sa cosa siano le ninfe, però capisce che questo è un complimento. La sorellina di cambio, lui le dice, mi ricordavo di te come di una bambina con le gambe magre, con le treccine ispide, ora ritrovo una giovane dea delle acque. E per una contadina, insomma, due frasi del genere genere, e questo è già steso. Lui ha una bella esperienza in fatto di donne, ne ha avute parecchie, sia perché è un bel giovane, e poi insomma se la cava, si sa muovere, sa cosa dire, poi ha una posizione sociale dalla sua parte e quella Caterina gli piace proprio. Sono belli, sono giovani, sono appassionati, e quello che accade tra Caterina e Ser Piero è evidente. Insomma, i due si innamorano, cominciano a vedersi quasi tutti i giorni in questo capanno abbandonato nel bosco. Lei scopre l'amore, si convince che quell'uomo sia esattamente la personificazione dei suoi sogni di ragazzina. Lui non è come gli altri che ha conosciuto in vita sua, i fratelli, gli amici, i contadini del villaggio, rozzi e maleducati. Lui è un'altra cosa, è profumato, è elegante, è delicato nel modo di trattarla. Insomma, fare l'amore con lui non è quell'atto bestiale che le è stato raccontato dalla sorella o dalle amiche sposate. Lui la rispetta, la considera una persona a tutti gli effetti. Fa l'amore da nobile, non da contadino, e lì c'è una bella differenza in quegli anni. La riempie anche di regali bellissimi che non guasta, oggetti che lei non ha mai posseduto, non ha neanche mai visto. Le racconta le sue giornate, il lavoro, e poi le promette di non passare a riscuotere la pigione dai suoi fratelli fino a dopo il raccolto, perché sa che per loro sarebbe difficile poter pagare prima. Insomma, dimostra a Caterina che tiene veramente a lei, e c'è un periodo abbastanza lungo in cui i due si vedono praticamente tutti i giorni, e poi Ser Piero comincia a diradare gli appuntamenti nel capanno del bosco. Dice che ha da fare, presto dovrà tornare a Firenze per la sua attività di notaio, chissà, magari le dice anche ti lascio perché ti amo troppo. Insomma, queste cose che gli uomini quando sono un po' infami fanno spesso, e in paese si comincia a vociferare sui due. Questi pettegolezzi arrivano alle orecchie di Lisa, che è la sorella maggiore di Caterina. Piero è un giovane gaudente, ha amanti dappertutto, a Firenze, a Prato, a Fiesole, in un borgo ha una donna come un marinaio in ogni porto. È bello, è ricco, anche generoso, e non disdegna le serve, le contadine, le operaie. Ma certamente non ti ama, povera sorellina mia. Suo padre lo avrà promesso a qualche damina di buona famiglia. Ora capisco perché non è venuto a batter cassa a Cegoli. Qualcosa di buono la tua relazione lo ha portato, se non altro il tuo seduttore ha ritegno a domandare il dovuto ai tuoi fratelli. Diciamo che anche tu ti sei sacrificata per la famiglia. Comunque ora lui è tornato a Firenze, e se tu hai un grammo di sale in zucca, dovresti subito farti sposare da Tonio, prima che le voci diventino un coro da messa. Caterina sta rischiando grosso. Se le voci della sua relazione dovessero trasformarsi in certezza, lei vedrebbe crollare tutta la sua rispettabilità, sarebbe una ragazza compromessa, probabilmente non riuscirebbe più a trovare marito. Almeno questo è quello che le dice la sorella. Lei non importa niente di tutto ciò, perché lei griderebbe ai quattro venti il suo amore per il bel notaio. E lui peraltro ha detto a lei che il padre lo ha più volte esortato a trovarsi una moglie. Caterina si convince che lui le abbia detto così perché sta pensando di chiederla in sposa. In realtà non è così, è che lui si confida, ma non è che la rispetti più di tanto. Poi accade qualcosa di inaspettato, qualcosa a cui Caterina non aveva pensato, ma che sta per cambiarle per sempre la vita, perché nel non tirarsi indietro del notaio Ser Piero da Vici c'è anche un'altra componente, e in pratica Caterina si accorge di aspettare un bambino che entrerà nella storia. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Oggi 2 maggio 2019, 500° anniversario della morte del più grande genio dell'umanità, di Leonardo da Vinci, si sta celebrando in tutto il mondo questo evento grandioso che ci coinvolge, diciamo, in un unico grande abbraccio, perché Leonardo è veramente di tutti, e anche noi abbiamo deciso di parlare del grande genio di Vinci, e naturalmente lo vogliamo fare a modo nostro, e cantare fuori dal coro è la nostra cifra stilistica. pratica, e quindi lo facciamo con una specie di scoop, anzi con uno scoop vero e proprio, perché parliamo di qualcosa di assolutamente inedito. La nostra straordinaria e sconosciuta protagonista di oggi è Caterina, madre di Leonardo da Vinci, una donna coraggiosa che ha scelto di vivere nell'ombra pur di dare alla luce e veder crescere suo figlio, un genio. E noi, grazie alla professoressa Elisabetta Ulivi e alla scrittrice Marina Migliavacca Marazza, che ha scritto il romanzo storico L'ombra di Caterina, raccontiamo appunto la nostra Caterina, questa contadina che si era innamorata perdutamente dell'affascinante notaio Ser Piero da Vinci, giovane di una classe sociale decisamente superiore alla sua, e che a un certo punto, a furia di innamorarsi, scopre di aspettare un figlio da lui. Spera che l'uomo la sposi, perché lui si è sempre dimostrato molto carino nei suoi confronti, gentile, e entrambi sarebbero nell'età giusta per sposarsi. Non sarà così, perché Caterina deve scontrarsi con la dura realtà della società della sua epoca. Una contadina non può assolutamente convolare a nozze con un uomo di quel lignaggio, e la soluzione ci sarebbe, una soluzione insomma alla buona. Lisa, la sorella di Caterina, ha l'idea chiave. Tonio l'attacca briga. È una benedizione del cielo, stordita che non sei altro. Digli di sì subito, immediatamente, e cerca di maritarti prima dei santi. Magari lui non resisterà fino al giorno delle nozze, se ti mostri bella come sai fare. Gli giri un poco intorno, lo provochi, e appena lui ci prova, apri le gambe. Di neonati settimini è pieno il mondo, gli sarà difficile fare i conti, soprattutto se ti avrà presa prima di sposarti. Devi fargli credere che il bambino è suo. Forse lui intuirà qualcosa, ma oramai sarete marito e moglie. Poi gliene darai altri di figli, che saranno davvero suoi, e tutto si sistemerà. E Ser Piero, l'estate è finita. Ser Piero fa il notaio a Firenze, testa di rapa. Lascialo dov'è, sarà meglio per tutti. Il Tonio di cui parla Lisa in tutto questo prosaico tentativo di salvare la sorella, insomma, in questa maniera, e quel Tonio è quell'Antonio Buti di cui abbiamo già parlato. È un ceramista, è stato soldato di Ventura, è tornato a casa con una gamba offesa e una cicatrice che gli squarcia il viso, è tornato a casa dalla guerra, ha messo gli occhi su Caterina, vorrebbe sposarla, sarebbe la soluzione perfetta, anche perché peraltro, come aveva previsto la saggia e cinica sorella di Caterina, si viene a sapere che Ser Piero è promesso sposo a una giovane di famiglia bene di Firenze, una certa Albiera Amadori. E se Caterina fosse stata una donna meno coraggiosa, oggi probabilmente nessuno conoscerebbe il genio di Leonardo da Vinci. Per fortuna sua e di tutto il mondo, però, Leonardo non ha avuto una madre codarda, ha avuto per madre una grande donna, va anche inquadrato in quel periodo tutto quello che fa Caterina da questo momento in avanti, perché lei lotta per lui, lotta perché gli venisse riconosciuto un ruolo sociale che gli spettava di diritto, almeno riconosciuto in parte, e tutto questo a costo della sua stessa felicità di donna e di madre. Caterina non vuole nascondersi, non le interessa il suo buon nome, la sua facciata di rispettabilità di ragazza nubile. Sì, lei aspetta un figlio dal notaio Ser Piero da Vinci, il padre deve saperlo, deve occuparsi di quel bambino concepito con amore. Ormai ha capito che lui non la sposerà mai, ma questo non le importa più, quello che conta adesso è suo figlio. Ha avuto un momento di smarrimento Caterina, ricordiamoci che solo 17 anni, che è sola, non ha nessun alleato in questa vicenda. Ha fatto visita a te, alla fattucchiera del paese, sotto le cui mentite spoglie si nasconderebbe una famosa strega, Matteuccia da Todi, scampata al rogo anni prima. È una donna che si dice che con le erbe misteriose abbia aiutato le donne a rimanere incinte o a abortire. Non sappiamo bene cosa ha in mente Caterina quando va da Tea, quello che è certo è che trova un'amica, un aiuto in questa donna, che le insegnerà perfino a leggere. Probabilmente Tea è dotata di qualche dote di preveggenza, la esorta a non abortire, un giorno sarai orgogliosa di questo tuo figlio, le dice. E la rassicura anche di un altro fatto, Alberia non darà eredi a Ser Piero, questo bambino sarà benedetto dalla casata dei Vinci. E così fa due cose, Caterina, due cose che richiedono veramente in quegli anni un coraggio gigantesco. Comunica il suo stato alla famiglia e anche a Tonio, che nel frattempo l'ha chiesto ufficialmente in sposa. Naturalmente questo scatena un putiferio, ma c'è anche uno strano meccanismo che, cioè, le procura un senso di rispetto da parte della comunità contadina. In fondo lei aspetta un figlio dal padrone e ha il coraggio di ammetterlo. Tonio non è uno stupido, ama profondamente Caterina, la difende di fronte a tutti, dice che almeno lei è sincera e non è un'ipocrita. E anche Tonio, insomma, ha un bel ruolo, ne esce da signore. L'altro atto molto coraggioso che compie la ragazza è andare dalla madre di Ser Piero, Monna Lucia degli Zosi, una donna dall'animo nobile che la mette subito in contatto col figlio. Aspetti un bambino. Questo è di buon auspicio per il mio matrimonio con Albiera. Avrò molti eredi allora. Non devi preoccuparti. Provvederò a tutto io. Tu pensa solo a stare bene e a portare a termine la gravidanza. Non ti devi affaticare. Lo dirò a mia madre, che ti procurerà quello che serve. Queste sono cose da donne. Sistemeremo tutto. Ti troveremo un marito. A chi non vorrebbe una come te? Te l'ho sempre detto. Sei bella da sposare. E avrai anche qualcosa per dote, come si conviene. Puoi stare tranquilla. Voglio essere certo che la madre di mio figlio non debba soffrire privazioni. Ser Piero da Vinci, insomma, ha una reazione non comune. Certo, il tatto non era in quei tempi usato, perché le dice aspetti un bambino, meno male, vuol dire che posso avere tanti eredi, non è proprio una frase da signore, però di fatto, insomma, non la manda via, e questo è molto per quegli anni. Insomma, la coraggiosa Caterina porta avanti la sua gravidanza con una certa serenità. Il 15 aprile 1452 dà alla luce suo figlio, al quale mette il nome di Leonardo, lo sceglie lei il nome per questo figlio. Lei però in realtà sarà solo balia di latte, non avrà alcun ruolo nella sua vita. Leonardo vivrà tutta la sua infanzia e adolescenza come figlio illegittimo nella casa paterna. Era un ruolo particolare, ce n'era in quegli anni, non potrà accedere a tutta una serie di opportunità che erano precluse all'epoca ai figli nati fuori dal matrimonio. Per esempio non potrà diventare notaio come il padre, però peraltro questo per l'umanità direi un colpo di fortuna, visto gli sviluppi che ha avuto la sua vita. E dobbiamo ringraziare la madre Caterina, che per amore di questo figlio ha saputo accettare che i Vinci le portassero via quel figlio meraviglioso. Lei lo avrebbe amato in silenzio per tutta la sua lunga esistenza, ma avrebbe potuto osservarlo solo da lontano. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Leonardo da Vinci cresce nella casa paterna, è allevato dalla nonna, dal giovane zio Francesco, che gli passerà l'amore per la natura, per le scoperte, per la tecnica. Il padre intanto ha un destino particolare, rimane vedovo tre volte dopo Albiera, si sposa con Francesca, Margherita e poi Lucrezia. Dalle ultime due avrà una dozzina di figli. Caterina nel frattempo sposa Tonio Buti, ricordate, l'attaccabrighe, l'invalido di guerra, prende il suo cognome. E Tonio in realtà è anche un buon marito, hanno 5 figli, 4 femmine e un maschio, che peraltro rappresenteranno anche fonte di dolore. Una delle sue figlie verrà violentata e si ritirerà in convento, l'unico maschio morirà in guerra. Ma intanto che conduce la sua vita, Caterina segue sempre da lontano con discrezione, accorata disperazione direi, insomma segue sempre quel figlio speciale che da piccolo non sa neanche chi sia lei. Caterina, la madre, abitava anche lei in Vinci e vedeva crescere quel bambino che le avevano portato via. Chi sei tu? Chi sei? Me lo dici chi sei? Allora, non me lo vuoi dire? Leonardo! Oh, Leonardo, ma tu vai sempre in giro come un vagabondo, eh? Ecco la gara! Addio, hai visto come cresce, eh? Sì, ma chi è quella donna? È una donna, sciocchino, non l'hai visto. Ma chi è quella donna? È una donna. Quanto deve essere grande il cuore di una donna, di una moglie, di una madre per sopportare tutto? Quanto pesa la gerla che ci portiamo addosso tutte noi figlie di Eva? Tutte le delusioni, tutti i dispiaceri, tutti i lutti, tutti gli spaventi. Queste sono le parole che Caterina pronuncia durante i suoi momenti di sconforto. E però il pensiero del figlio la tiene vigile, la tiene combattiva, e il suo sogno di potergli dire un giorno chi lei sia veramente. Intanto Leonardo si è trasferito a Firenze, è entrato nella prestigiosa bottega del Verrocchio insieme a Botticelli, al Ghirlandaio, al Perugino, e da lì sta per spiccare il volo per diventare tutto quello che sappiamo: pittore, scultore, ingegnere, architetto, scrittore, inventore. E di lui Caterina sa quello che le viene raccontato, si ricorda di quello che le aveva predetto la fattucchiera Tea: non abortire, un giorno tu sarai orgogliosa di questo tuo figlio. Il cuore di una madre non si ferma davanti a nulla. Quando Leonardo viene accusato di sodomia, viene imprigionato nel famigerato carcere delle Stinche di Firenze, quando rischia la morte, lei accorre a sostenerlo, suscitando in lui una naturale curiosità. Ancora questa, ma chi è questa donna? Gli viene detto che è stata la sua balia. Però insomma Leonardo non passava certo per essere stupido, probabilmente ha cominciato a capire, anche se anzi forse proprio perché nessuno gli aveva mai detto chi fosse la sua vera madre, e i dubbi sicuramente lui li aveva. Per fortuna Leonardo se la cava, la magistratura non dà seguito alla denuncia perché nella vicenda è coinvolto anche un cugino di Lorenzo il Magnifico, tutto viene insabbiato, anche allora insomma andava così. Leonardo cambia aria, va a Milano, si mette al servizio degli Sforza ed è proprio per Milano che Caterina, molti anni dopo, rimasta vedova, nonna di diversi nipoti, proprio per Milano lei parte. Lei non si era mai mossa dal paese, sfida le miglia, le stagioni, i briganti, sarei partita a piedi e senza scarpe, racconta, non può più aspettare. Prima di morire lei deve abbracciare quel figlio ormai famoso, idolatrato da tutti, che ha abbracciato solo finché aveva latte. È il 16 luglio 1493. Caterina venne a D 16 luglio 1493. Caterina. Chi è questa Caterina di cui troviamo improvvisamente il nome in una delle tante pagine di Leonardo? La madre? Dopo tanti anni di distacco, di abbandono, la donna è venuta a stare con lui? L'umile donna di Vinci è venuta ad abitare proprio con il figlio famoso. E perché? Forse è rimasta sola, in miseria. Non è una serva, perché Leonardo non adopera la solita dicitura «venne a stare con meco», oppure «venne a 4 ducati il mese». Leonardo scrive semplicemente «venne». Caterina arriva a Milano quando Leonardo sta dando le prime pennellate all'ultima cena, rimane con lui fino alla morte. Il figlio non la chiama mai madre davanti agli altri, è molto riservato, non mette mai in mostra i suoi sentimenti, ma è evidente che tra di loro devono essersi parlati, finalmente si sono detti quello che non si erano mai detti prima. Questo traspare anche dalla tristezza con la quale lui annota minuziosamente, come suo solito, le spese per la sotterratura di Caterina quando la donna muore. Spese per la sotterratura di Caterina. Per libre 13 era, soldi 27. Per locata letto, soldi 8. Portatura e positura di croce, soldi 4. Per la portatura del morto, soldi 8. Per 4 preti e 4 chierici, soldi 20, campana, libro, spugna. Non sappiamo, non sapremo mai cosa si sono detti Leonardo, sua madre Caterina sul letto di morte di lei. Può darsi che lui non sia riuscito a esprimere i suoi veri sentimenti, lui era riservato fino alla patologia, però aveva di fronte quella donna che gli aveva dato la vita, che non aveva mai vissuto con lui, che aveva messo in gioco tutto pur di garantirgli un futuro. Forse invece qualcosa si sono detti, forse il sacrificio immenso di questa madre coraggiosa ha avuto il suo riscatto, almeno in extremis legittimato dalle parole di un figlio così amato. A noi piace pensare che negli ultimi istanti di vita lei abbia sentito la voce di Leonardo e abbia sentito da lui le parole che aveva aspettato tutta la vita. Forse madre era la parola da dire in quegli attimi. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it. sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Le sfide da affrontare per il sistema energetico mondiale sono sempre più complesse in uno scenario in cui transizione e sicurezza economica sono prioritarie e interconnesse. La transizione energetica è prima di tutto una transizione tecnologica, che richiede una forte capacità innovativa per avere un mix energetico sempre più decarbonizzato. La serie podcast Energia in Evoluzione ci porta alla scoperta della sfida tecnologica in corso, con approfondimenti e interviste ad esperti. Energia in Evoluzione è un podcast originale di Radio 24, creato per Eni.